9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 13 ottobre. Oggi uniamo in questa ideale riflessione che facciamo insieme a voi. Tra l'altro chiamate l'800240024 per dirci come la pensate. In questa ideale riflessione uniamo due episodi che sono avvenuti nei giorni scorsi. Due episodi di cronaca pesante, quelli che sono avvenuti a Milano da una parte, a Largo Caccia Dominioni, periferia sud della città, e alla stazione Anagnina di Roma. Avete già capito, per chi segue naturalmente le cronache di Nera, che stiamo parlando da una parte del pestaggio di gruppo per il tassista Luca Vassari in coma a Milano e tutto il seguito della vicenda che ha riproposto all'attenzione pubblica a Milano un particolare coacervo di questioni, di tanta gente che ha visto quello che stava avvenendo e non ha collaborato con le forze dell'ordine, e non solo non ha collaborato ma poi ha minacciato testimoni, sono avvenuti arresti. Ma quello che ci interessa capire è come la pensate voi, se una vicenda particolare come può avvenire in tutte le grandi città, oppure se il fatto che avvenga a Milano, in una zona sì di periferia ma poi neanche particolarmente estremamente degradata, ci dica qualche cosa di Milano, dei milanesi, delle grandi città in generale, di una sicurezza, cioè esiste un problema di sicurezza particolare al di là di quello che siamo abituati a considerare, la questione dei rom, le pattuglie dei militari, però esiste un problema di gelo, indifferenza e addirittura ostilità della gente normale al punto tale che un tassista venga massacrato e la reazione spontanea sia quella di non collaborare. E questa è la vicenda di Milano. Dall'altra parte, Roma, stazione Anagnina, due giorni fa, una giovane rumena scambia delle opinioni con un giovane romano che la colpisce durissimamente, la lascia a terra. Filmati della televisione circuito chiuso documentano che passano dei preziosi secondi, decine di secondi, la donna resta a terra. Anche lì c'è una questione di indifferenza. Oggi i giornali romani dicono assolutamente no. Il Messaggero propone una lettura nella quale, al contrario di Milano dove esiste un evidente problema di indifferenza e di mancata collaborazione, il Messaggero propone una lettura affidando un editoriale a Vincenzo Cerami, lo scrittore Cerami, secondo la quale al contrario a Roma è scattato con questo ufficiale della Capitaneria di Porto che blocca, identifica il responsabile di questa durissima aggressione, una solidarietà praticamente pressoché immediata con rapidissimi soccorsi alla signora. Che cosa vogliono dire queste due vicende? Che esistono sensibilità diverse tra Milano e Roma? In che modo poi, quando ci si trova ad amministrare e governare città di queste dimensioni, la politica può fare davvero qualche cosa senza essere chiamata poi a rispondere di qualche cosa che poi riguarda anche noi cittadini, la nostra mancanza di adesione a un valore minimo di codice morale ed etico per quello che riguarda gli altri, per quello che riguarda Luca Massari, il tassista massacrato di botte per aver investito un cane, e per carità, ma insomma per aver investito un cane, non al guinzaglio, e dall'altra parte una giovane romena che lavora in Italia e che finisce in coma, anch'ella per un pugno, con questo giovane di 20 anni che dice io ho reagito per paura, e intanto però si stava allontanando e solo grazie a un passante della Capitaneria di Porto viene bloccato. Allora cominciamo a occuparci della vicenda di Milano, che inevitabilmente poi prende una piega di riflessione su la grande città, la capitale morale, le polemiche sulla sicurezza. È chiaro che le parti politiche si dividono, l'opposizione tenta di puntare il dito, ma nella realtà abbiamo con noi il vice sindaco Riccardo Decorato, che ringrazio molto per dedicarci qualche minuto, e a lui chiedo subito, vice sindaco, questa vicenda, poi arriviamo alla politica, quello che fate per la sicurezza, ma nella realtà, a lei che è spettatore e testimone da tanti anni delle vicende che avvengono a Milano e soprattutto degli impegni per la sicurezza, che cosa dice? dice. Una vicenda particolare riguarda un problema che c'è da quelle parti intorno al Largo Caccia Dominioni, oppure è inevitabile che tentiamo di ingigantire una vicenda che in realtà è grave, ma non implica per Milano altri aspetti se non la particolarità di questo gruppo di persone che sta per essere giorno dopo giorno con nuovi arresti assicurato alla giustizia e che esercitava un'impropria pressione al punto tale da minacciare i testimoni, un po' come se non fossimo a Milano ma in altri tempi e in altre parti d'Italia. L'impressione che le ha fatto questa vicenda, innanzitutto da questo punto di vista, vice sindaco Decorato, qual è? Ma intanto bisogna dire che quello che è accaduto in piazza Caccia Dominioni poteva accadere in qualsiasi piazza, in qualsiasi via di Milano e d'Italia. Balordi di quella natura ce n'è in tutte le città d'Europa, d'Italia, per cui il grave pestaggio al povero Massari è un fatto che ha ovviamente destato giustamente un enorme eco, ma questo, come si è visto poi a Roma, qualcosa di simile è accaduto anche nella capitale, per cui sono fenomeni che non sono milanesi, romani, napoletani, sono fenomeni che appartengono alla vita di questi giorni, alla realtà di queste giornate. C'è gente che per un cagnolino che viene ammazzato mette a repentaglio la vita di un uomo. E ora, quindi, io non credo che ci sia. Il problema lì è stato un altro, è stato il contesto, e cioè il fatto che c'è stato questo gruppo di aggressori che ha tentato di intimidire i testimoni bruciando auto, picchiando un po' sotto le porte. Ecco, questo è un contesto che certamente anche qui riguarda certamente la sicurezza, ma è un problema complessivo. Gli investigatori dicono almeno in 10 hanno visto, nessuno ha collaborato. Si legge oggi sui giornali. E da questo punto di vista, io so che non c'entra molto, però chi si trova a leggere random una volta ogni tanto e a far caso ai titoli, quando vede che poi Milano, la Lombardia, gli addentellati oramai sempre più profondi della malavita organizzata calabrese eccetera eccetera, atteggiamenti di omertà intorno a pressioni violente come sono queste che vengono esercitate sui testimoni, lei dice può essere avvenuto dovunque, ma il fatto che avvenga a Milano è qualcosa di fronte al quale aprire le braccia dicendo in realtà oramai tutto il mondo è paese, tutte le città italiane hanno fenomeni di questo genere, o non significa che c'è qualcosa anche di più il fatto che avvenga a Milano? Guardi, il problema a Milano come a Palermo è che lo Stato faccia capire che i testimoni non vengono lasciati soli. Purtroppo in alcuni casi a Milano non è mai successo, però i segnali che arrivano di testimoni che testimoniano nelle aule di giustizia e poi vengono lasciati soli, oggetto di non solo intimidazione ma di attentati o d'altro, non testimoniano molto a favore. E poi c'è un dato che lei conosce molto bene e che io mi sento ripetere dai milanesi: la certezza della pena. Siamo convinti che questi delinquenti che hanno massacrato di botte un tassista non usciranno tra qualche settimana. Questo è il problema che poi induce i milanesi o i palermitani, i napoletani o torinesi a dire: ma chi me la fa fare? Ieri io ho fatto un appello a tutti coloro che domenica pomeriggio hanno visto dai loro balconi alle 3 questa raccapricciante scena. Milanesi non sono mai stati e non lo saranno mai omertosi, perché Milano è una città in cui sono stati dati migliaia di esempi da parte dei milanesi che quando si tratta di rispettare le regole si è in prima fila. Però io metto un però, perché poi tutti i giorni la cronaca cosa registra? E quello che vediamo, soprattutto non al nord, per carità, non a Milano, ma quegli esempi, quei fatti che accadono a testimoni in processi importanti contro l'Andrangheta, contro la mafia o contro la Camorra, lasciati soli, abbandonati, non depongono a favore, soprattutto in quartieri di Milano dove un po' di questi balordi sono un po' arroganti, come si è visto, diventano, si fanno forti del fatto che magari da quelle parti non passano molti poliziotti e quindi si fanno, la loro arroganza in questi grandi casseggiati popolari diventa un po' insomma il giorno per giorno, per cui dobbiamo stare attenti, lo dico qui a me stesso che sono ovviamente amministratore, parlamentare, ma lo dico a tutte, soprattutto alle autorità, ai magistrati, attenzione, quando si abbandona un testimone e lo si lascia solo, quello è un esempio brutto per tutti gli italiani, non solo per il sud, ma anche per chi al nord vive in situazioni di difficoltà, in situazioni in cui magari la malavita organizzata, in questo caso non è malavita organizzata, sono balordi, si fanno forti di queste regole. Io devo dire questa che tra mancanza di regole. Vice Sindaco, tra i nostri ascoltatori ho fatto un rapido conto degli sms che hanno iniziato a focare, devo dire che la questione certezza della pena, magistrati, il rapido rilascio di responsabili di episodi di questo genere, devo dire che raccoglie un certo sostegno maggioritario, direi, nei messaggi che arrivano. Alcuni sostengono anche che il problema dell'indifferenza e del fatto che attecchisca anche a Milano, in un contesto sì periferico, ma non particolarmente degradato come quella area intorno al Largo Coccio e Dominioni, individui poi un problema di indifferenza generale che riguarda tutte le città italiane. Però le chiedo, noi abbiamo, lo sa benissimo, molti ascoltatori tra i tassisti, tra la gente che lavora in viaggio utilizzando l'auto di servizio e quindi siamo praticamente tenuti, visto il sostegno che ci danno gli amici tassisti, a fare una domanda. Esiste una questione poi particolare a Milano di tutela della sicurezza dei tassisti? Il Comune ha fatto tutto quello che deve, si è letto sui giornali di polemiche ovviamente nei confronti dell'opposizione, da parte dell'opposizione nei confronti della Giunta. Lei ha ricordato che il tentativo di mettere a disposizione a spese del denaro municipale impianti di videovigilanza sulle auto in realtà non ebbe poi una gran risposta da parte dei tassisti. Esiste un problema particolare per le auto pubbliche a Milano secondo lei? Ma guardi, fare i tassisti a Milano come farlo a Roma, a Napoli o a Berlino, a Parigi è un problema che c'è, la sicurezza sulle strade, soprattutto nelle grandi città, è un problema che c'è dappertutto, di notte soprattutto, di sera. Noi abbiamo già 5.000 tassisti complessivamente, 4.000 di questi sono già collegati con centrali operative dei radiotaxi. A Milano abbiamo una delle migliori, più sofisticate centrali radiotaxi, che funziona benissimo individuando, localizzando dove il taxi, in caso di aggressione la segnalazione avviene immediatamente. Ieri abbiamo deciso di fare un collegamento diretto con delle quattro centraline di radiotaxi che sono a Milano con la centrale operativa, con la control room che ha le immagini delle telecamere sulla città. E poi abbiamo deciso di rifinanziare il sistema di telecamere sui taxi, che per la verità nel 2007 è andata un po' a vuoto, perché abbiamo su 5.000 taxi abbiamo avuto solo 158 richieste, e che rifinanzieremo, perché la telecamera è già un deterrente, perché siccome sull'auto dobbiamo mettere una vetrofania che dice questo taxi è video sorvegliato, è chiaro che solo il fatto che l'aggressore, un delinquente qualsiasi altro, possa salire su un taxi sapendo di essere video ripreso, questo già lo dovrebbe avere un effetto deterrenza. Iniziamo a vedere un po' i nostri ascoltatori, qua invito a chiamare dicendo un po' come la pensate, se dal vostro punto di vista è una vicenda particolare, una vicenda che è generale, come la vedete con Milano e la sicurezza. Sentiamo Marco che ci ha chiamato ovviamente da Milano. In questa prima parte ci stiamo occupando della vicenda del tassista massacrato in coma e della pressione che si è esercitata in quel quartiere perché nessuno cooperasse. Marco, come giudichi questa vicenda? Buongiorno, ma io da milanese sono abbastanza indignato, oltre che dell'evento, ovviamente anche del modo in cui viene presentato. Cioè Milano da anni sta cercando di reagire a una sorta di abbandono istituzionale con molteplici iniziative, raccolte di firme, manifestazioni. Ora basta girare in alcuni quartieri di Milano a mezzanotte per rendersi conto che le grida di allarme non erano immotivate. Allora lo Stato ha un dovere, due doveri: prevenire i reati e sanzionarli. La prevenzione non la vediamo, perché torno a dire, dottor Giannino, lei è un liberista che dice sempre cose che pensa e con cui sono spessissimo d'accordo. Provi a passare per alcuni quartieri milanesi stanotte e poi si accorge di cosa vuol dire vivere oggi a Milano e vedere l'assenza totale della prevenzione dei reati. E poi le sanzioni. Le sanzioni le vedremo tra qualche mese su chi ha partecipato a questa aggressione. Ma per favore non parlate di Milano Omertosa, perché i testimoni sono emersi subito, ma come sono stati protetti? Vedendo bruciare la loro macchina, vedendosi insultati davanti alla polizia che aveva evidentemente l'ordine di non fermare nessuno, per cui abbiamo visto questa orda di personaggi insultare i poliziotti senza reazione, senza vederli arrestare, quando vediamo azioni di repressione fortissime oggi a Milano soltanto davanti alle discoteche per fare l'etilometria. Vi ascolto in radio, grazie. Grazie a Marco. C'è anche Andrea che ci ha chiamato da Milano. Andrea, la sua opinione? Buongiorno, più che un'opinione è una precisazione. Il contributo, cioè il finanziamento del comune per l'installazione del sistema di sicurezza a bordo dei taxi non funzionava così: il tassista doveva contribuire per 1500 euro, quindi per completezza dell'informazione. Quindi questo poi spiega perché poi in realtà ad aderire sono stati in pochi. Il vice sindaco, io l'avevo detto che abbiamo i tassisti ascoltatori, era così decorato? Allora, intanto io vorrei dire all'ascoltatore di prima che a Milano i reati sono in netta diminuzione. Milano è una delle città più sicure d'Italia ed Europa. Abbiamo il 18% di reati in meno, questo lo dice il questore di Milano alla festa della polizia il 15 maggio scorso, e lo ripete il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri alla festa in Piazza Duomo dell'Arma dei Carabinieri. Quindi questa è la realtà, la percezione probabilmente è diversa, ma a Milano i reati sono in netto calo. Tra luglio e agosto, dati della Questura di Milano, i reati a Milano sono diminuiti del 24%, ad eccezione di uno, che sono i furti in casa. Ora, poi si può contestare tutto, si può dire che non vengono perseguiti, che le forze dell'ordine non ci sono, ma è ingeneroso, perché se questi dati, che sono dati, ripeto, del Ministero dell'Interno, sono veri, vuol dire che c'è un sforzo di abbastanza grosso da parte di carabinieri, polizia, anche vigili urbani sulla città. Decine di persone, non ci sono, le violenze sessuali sono diminuite dell'80% a Milano, questi sono i dati. Dico questo perché se non si capisce questo, poi tutta l'analisi che viene fatta dopo è quella che poi per motivi elettorali, il centro-sinistra, noi siamo in campagna elettorale a Milano, quindi è evidente che anche le persone che vengono pestate e ferite diventano oggetto di campagna elettorale. Io ieri ho fatto un appello, teniamo fuori dalla campagna elettorale questa vicenda perché c'è un uomo che lotta con la vita e quindi sarebbe ingeneroso, ma ho visto che questo non è possibile perché la campagna elettorale coinvolge anche questi episodi. Sulla questione dei contributi, noi possiamo dare metà del contributo e ci mettiamo a carico metà del contributo per l'installazione delle telecamere e non facciamo pagare la manutenzione, perché ogni anno c'è da pagare anche la manutenzione del collegamento diretto con delle telecamere e del collegamento diretto con la centrale operativa dei vigili, ma più di questo non possiamo fare. Certamente. Regalare le telecamere ai tassisti vorrebbe dire, insomma, conta un contributo, altro, metà e metà, esatto, ecco. Altro conto perduto. Allora, Piero Colaprico, che è giornalista, scrittore, osservatore dell'evoluzione di Milano negli anni, e a Piero Colaprico, oltre a ringraziarlo, chiedo esplicitamente, dal suo punto di vista, questa vicenda rispetto a come Milano è cambiata negli ultimi decenni, cosa può dirci questa vicenda e che cosa i cittadini pensano, per te che li guardi nel profondo, cosa pensano poi dell'evoluzione della risposta politica alle questioni della sicurezza in città, dell'adesione spontanea anche ai valori del vivere civile, che certo questa vicenda testimonia avere forti lacune. Che ne pensi, Piero? Sì, no, no, in realtà diciamo dobbiamo tutti procedere un po' a tentoni, no, su queste storie così particolari. Allora, innanzitutto, secondo me, credo che non è vero che questa roba poteva succedere in qualsiasi via. Cioè, ci sono delle vie di Milano che sono molto protette, che hanno un certo tipo di quartieri, che sono quelle del centro, e poi ci sono delle altre vie, degli altri quartieri, come questo qui di via Caccia Dominioni, dove questo può succedere, e ci sono un sacco di zone di Milano in cui la malavita italiana è ancora molto forte, è ancora quella di un tempo, sono i figli di gente che è stata in galera e che sono cresciuti con una certa mentalità e con una certa arroganza. Insomma, non sono solo gli extracomunitari a delinquere, ecco, per capirci. No, assolutamente. Il problema è che però, diciamo, il crimine e l'anticrimine sono per definizione apartitici, arazziali, cioè ognuno fa quello che può a seconda dei soldi che ha, dell'intelligenza che ha, eccetera. E allora, che succede? Che in realtà la stragrande maggioranza dei cittadini ha una grande capacità di reazione, tant'è vero che nonostante le intimidazioni, cioè la gente ha parlato, ci sono i verbali che sono stati riempiti, c'è la gente che gli ha detto anche a questi: oh, non vi permettete, cioè non c'è la paura di Scampia, perché i criminali a Milano non hanno mai sparato contro i testimoni o robe di questo genere. Però quando si parla di certezza della pena, per esempio, che è un tema importante, io un po' trasecolo quando sento il vice sindaco dire che questa cosa spetta ai magistrati. Voglio dire, noi sono anni che nel Parlamento sentiamo parlare di lodo Alfano piuttosto che di processo breve, non ci vuole molto a stabilire delle leggi più severe del tipo delle persone che aggrediscono con particolare crudeltà non sono ammesse agli arresti domiciliari. Cioè, sarebbe una legge molto semplice, non credo che il Parlamento ci debba mettere anni per deciderla, però non lo si fa. E quindi le città, diciamo, no, io abito in periferia a Milano, quindi tante situazioni me le raccontano non come giornalista ma come vicino, sono papà di bambini che possono avere delle difficoltà a seconda delle vie che attraversano. Ecco, io vedo che c'è una forte capacità di reazione del cittadino, il milanese non si fa mettere sotto i piedi da nessuno, ma nello stesso tempo ci si sente realmente abbandonati, e questo è un tema delicato oggi, cioè non sentirci, non abbiamo delle sponde alle quali rivolgerci, e mi permetto di dire, e la chiudo qui, se tu pensi che risolvi i problemi di Milano facendo il coprifuoco in via Padova, il coprifuoco in via Imbonati, il coprifuoco al Corvetto, facendo chiudere il kebab alle 24, hai proprio sbagliato logica, perché questa città devi aprirsi sempre di più, ma devi avere dei controlli che siano realmente efficaci e puntare a quelle persone che tu sai che possono essere un pericolo. Ma se tu prendi le forze dell'ordine, che hanno un numero stabilito, sono quelle, e le mandi a casaccio in alcuni quartieri, e il resto della città chi lo controlla? Quando il cittadino dice non c'è prevenzione, è vero, cioè, ci sono intere, cioè io a volte non vedo per settimane nessuna divisa, forse abbiamo degli orari sbagliati, siamo incompatibili, però me lo dicono anche gli altri, è così, è inutile concentrare gli sforzi dove ci sono i kebab, forse allora, sarebbe allora meglio fare qualcos'altro. Allora, io penso, apposta ci siamo, mi sono riservato Piero con la prico alla fine, perché la questione è, in una grande città, appunto Milano, Roma e così via, la questione dei criteri da seguire, effettivamente con la copertura delle forze dell'ordine, che possono essere quelle che sono, mica si può fare la copertura orwelliana a ogni angolo, è un po' questo enorme paradosso permanente, perché poi chi ha la responsabilità pro tempore, dalla prefettura al questore, il sindaco, il vice sindaco, si trova a dover risolvere questa questione. Mi concentro laddove ci sono i casi esplosivi e le maggiori tensioni etnico-sociali, oppure cosa faccio? Prima domanda, difficile rispondere. Seconda domanda, è vero che in alcune parti della società italiana è molto diffuso il senso di impunità, e questo deriva non solo dalla mancata certezza della pena dei magistrati, ma anche dal fatto che la politica, col suo dibattito sulla giustizia, con 16 anni, in realtà trasmette te tutti i giorni l'idea dell'impunità? Questa è una materia delicata, perché io sono un garantista, però io rispondo sì, come ha detto Piero, a questa questione. È vero che si ha la sensazione che più forti muscoli eserciti hai sui bicipiti, e più forte è la possibilità che la fai franca, perché in tanti la fanno franca se si fanno forti. E questo un po', secondo me, la politica non ci dà l'idea che non sia così, il che non significa che chi amministra pro tempore Milano-Roma sia così, ma la politica in generale italiana trasmette quest'idea per il dibattito che c'è, sappiamo, sulla giustizia, che non è venuta a capo di niente da 16 anni. Ora, pubblicità e passiamo poi a Roma. E come nel caso di Milano, cosa ci dice invece la vicenda di Roma, la vicenda di questa aggressione da parte di un ventenne, Vittorio Burtone, che stende con un pugno in coma una 32enne infermiera romena da anni, 8 anni in Italia, nessun problema, con tutta la famiglia, lavoratori tenaci, descritti come cittadini in regola da tutti i punti di vista. Eppure Vittorio Burtone, 20 anni, la stende Maricipa Aiaiano, 32 anni, che resta per terra. Dopodiché polemica, perché le immagini riprese della stazione Anagnina sembrano in un primo momento inequivocabilmente attestare che passa la gente, non ci fa caso, la donna resta per terra, e quindi testimoniano un altro incredibile conferma di questa indifferenza di cui la vicenda di Milano, di cui abbiamo già parlato, è una prima terribile conferma. Invece poi il giorno dopo sembra che le cose siano diverse. Oggi il Messaggero dà una lettura totalmente diversa al quotidiano diretto da Roberto Napoletano, il quotidiano romano dice: neanche per idea, qua hanno sbagliato tutti, ha sbagliato anche il sindaco Alemanno, che era fuori dalla città e è intervenuto dicendo che il comune si costituisce parte civile. Al contrario, la vicenda della povera Maricica Aiaiano, 32 anni, in coma, testimonia che a Roma la solidarietà scatta immediata, perché queste immagini della fotosequenza della Nannina possono trarre in inganno. La realtà è che in pochi secondi c'è un sottufficiale della Capitaneria di Corpo di Porto che blocca immediatamente, identifica e blocca e assicura alle forze dell'ordine il ventenne che stava scappando, e la signora viene immediatamente poi curata. Quale di queste due letture è vera? E con noi abbiamo con noi Alessandro Barbano, che è il vice direttore del Messaggero, e Federico Moccia, che è scrittore e che segue appunto con un occhio particolare il suo personale Roma, raccontandola anche ai suoi lettori. E comincio con Alessandro Barbano. Cos'è la cronaca del giorno dopo per dire che Roma è meno peggio di quello che sembra, oppure davvero la percezione immediata dell'enfasi mediatica non ha fatto leggere bene il primo giorno la storia di Roma? Ma qui ha sbagliato una sola persona, e la persona che ha sbagliato è questo giovane di 20 anni, che peraltro ha dei precedenti per una lite dello stesso genere, e ha avuto un gesto assolutamente da condannare. Ecco, questo è il primo punto. Nessun altro ha sbagliato, evidentemente. E che è già ai domiciliari, ovviamente. E che è già ai domiciliari. Dopodiché, tra il pugno del ragazzo e il soccorso passano 25-30 secondi, e tra il pugno del ragazzo e il momento in cui lui viene fermato da un passante passano 13 secondi. Quindi è chiaro che, voglio dire, parlare di indifferenza quando dopo 13 secondi questo ragazzo è stato fermato da un passante, è evidente che la vecchietta anziana che vede un energumeno tirare un pugno a una signora si mette a largo perché ha paura, ma questo non può essere considerato un gesto di indifferenza. Certamente c'è paura di fronte a una lite violenta che una persona che non può fronteggiare teme anche delle reazioni e si allontana, ma nel momento in cui i cittadini che si trovano nella zona del fatto si rendono conto che c'è una donna a terra grave, la soccorrono, e sono passati appena 20 secondi. Quindi un po' questa retorica dell'indifferenza, che fa molto giornalismo, però talvolta è usata ed abusata in maniera diversa, anche in questo caso ha avuto un effetto forse da indurre in errore il sindaco che si trovava a Pechino e a cui questa vicenda è stata evidentemente riferita. Diverso è il caso di Milano, dove, come noi sappiamo, è stato ammazzato un tassista, è stato ferito gravemente, un tassista, per aver investito e ucciso un cane, e quando è arrivata la polizia c'erano 100 persone e nessuno dava neanche le generalità. Quindi sono due contesti urbani diversi, non perché Milano sia peggiore di Roma, ma perché evidentemente la stazione Anagnina non è un luogo di nessuno, mentre la zona dove il fatto a Milano è accaduto era certamente un luogo di nessuno. Però naturalmente il paradosso inverso per cui scattava automaticamente, fosse avvenuto a Roma quello che è avvenuto a Milano, è inutile far finta di niente, cari ascoltatori. Molti avrebbero detto: siamo alla solita storia del sud, indifferente, astatuale, senza valore civile, eccetera eccetera. Il paradosso aggiuntivo di questa vicenda è che a Milano, che poi scatta l'omertà e le minacce, bruciano le macchine a chi vuole collaborare con la polizia per una volta. Pensateci bene rispetto a tutto quello che si alimenta come riflesso condizionale nella classica rappresentazione di nord e sud. È a Milano che succede questo. A Roma stiamo dibattendo se alcune decine di secondi in più o in meno nel soccorso e nell'immediato automatico scattare da parte di un sotto ufficiale della Capitaneria di Porto del diritto dovere di bloccare immediatamente l'aggressore, paradossalmente sembra un'inversione di ruoli tra Roma e Milano, capite? Senza voler di dare alcuna polemica o lettura filoleghista, antileghista, lo dico però perché bisogna sbarazzarsi dei luoghi comuni per capire bene quali sono i problemi, le tensioni e i buchi che ci abbiamo tutti in testa, o tanti di noi in testa, molto più di quanto abbiamo attribuirli solo alla politica, alle forze dell'ordine, ai sindacati, ai magistrati. Il problema siamo noi, ciascuno di noi. Federico Moccia, a te come osservatore, come scrittore, ci hai regalato di Roma, insomma, negli anni visuali e letture particolari. E allora, questa vicenda e questo paradosso incrociato di Milano, tra virgolette, omertosa, e di Roma che, sia pur 20, 30 secondi, un minuto, ma interviene, che cosa ti suggerisci? Ma buongiorno a tutti. Innanzitutto, rispetto a quello che è stato il tentativo attraverso i romanzi, attraverso i film, di un romanticismo, di una serie di considerazioni che dovrebbero appartenere all'animo, tra virgolette, più puro dei giovani, sicuramente una grande amarezza. Nel senso che ho guardato, avendo saputo la notizia e sapendo di questo intervento, ho guardato proprio il filmato di quello che era successo a Roma. E trovo vergognoso e disdicevole il fatto che un ragazzo di quell'età, 20 anni, possa addirittura caricare un pugno come in un incontro di pugilato per colpire una donna. Cioè, questo è proprio il concetto, no? Di una donna e di un uomo, di un ragazzo di 20 anni che ormai comunque a tutti gli effetti andrebbe considerato un uomo e che dovrebbe essere proprio nella formazione, nella sua educazione, nella sua cultura, quello di non colpire con quella violenza una donna. E che considerava, perché avevano avuto a che fare, lui diceva: tornatene in Romania. Quindi lì c'è sicuramente una venatura di evidente razzismo. Questo spetterà ai magistrati, ma è così, perché la ricostruzione dei fatti, lo scambio di battute precedenti, perché lui carica il pugno, dice questo. Sì, ma qualunque possa essere la ragione nei confronti di una visione anche sbagliata, ma comunque personale, rispetto a quella che può essere l'identità di appartenenza, questo non giustifica un atto di questo genere, assolutamente. Quindi ci mancherebbe, cioè proprio siamo fuori da ogni considerazione. Cioè, secondo me qui manca proprio un'educazione alla base, quella che dovrebbe essere alle fondamenta della formazione di un ragazzo, di un individuo che sta crescendo invece con la cultura della violenza. La stessa cosa dicasi per Milano, perché lì c'è un atteggiamento sicuramente diverso rispetto a quella poi che è stata la risposta del circondario, sicuramente in qualche modo più giustificati purtroppo da quella che può essere la violenza in quello che non ti dà la capacità, la possibilità di raccontare, di rispondere, perché come si è visto poi sei soggetto a degli atti vendicativi come aver bruciato una macchina di chi comunque era andato a testimoniare sull'accaduto. Certamente. Allora, questa violenza di cui siamo un po', voglio dire, tutti responsabili, quando è manifestata da giovani di 20 anni, perché significa buchi culturali, buchi educativi. Io non do colpa mai alla società degli atti di violenza, non mi è mai piaciuta questa cosa che era invalsa negli ultimi 25 anni, 30 anni fa. Non credo che esistano le colpe sociali, esistono però le responsabilità diffuse, e quindi il problema non è solo, ripeto, la magistratura, anche se non sono d'accordo, tanto per cambiare, sugli immediati domiciliari ai responsabili di un gesto di questo tipo. Perché? Perché contribuisce anche quello al senso di discontinuità che deve avvertire un ragazzo di 20 anni se fa una cosa simile, lo deve avvertire anche nel provvedimento di cui viene interessato, nel provvedimento di limitazione della propria libertà. Ai sensi del codice non serve a questo la custodia cautelare, lo dico perché è in ascolto e perché io per primo lo so tecnicamente. Quindi la custodia cautelare non è una pena che vada proporzionata all'effetto che deve esercitare su colui il quale ne venga colpito, perché serve ad altro nel nostro codice, non c'è dubbio. E quindi che venga scontata in carcere o a casa, penso che alcuni di voi potrebbero pensare meglio a casa piuttosto che in carcere, perché altrimenti lo istradiamo ancora peggio. Però se ci pensate bene, questo dà nella testa di altri ventenni eccetera eccetera probabilmente quel senso di maggiore impunità che contribuisce anche a capire perché poi la violenza scatta. E non voglio farne dei mostri di questi ragazzi di 20 anni, non lo sono. Il problema è come farglielo capire al meglio, ciascuno per la propria cultura, formazione scolastica eccetera eccetera, che è impensabile fare cose di questo genere e oltretutto pensare di poterle fare, perché se sei forte e figo magari la fai franca. Informazione stradale. Il mio invito a considerare il paradosso Roma-Milano, Milano-Omertosa eccetera eccetera rispetto a Roma, in cui pochi secondi, ma comunque poi alla fine c'è un sottufficiale che identifica l'autore, ho le reazioni di molti ascoltatori milanesi che mi dicono: guarda, non capisci veramente nulla, perché guarda dove è capitato a Milano e guarda quanti immigrati, questa volta nel sud, cioè terroni per capirci, ci sono. Ragazzi, non so cosa dire, vedo che in molti avete questa reazione, non la commento, ma non per superiorità. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare quindi di dosare la presenza delle forze dell'ordine per provenienza etnica delle regioni italiane e dei diversi residenti? Da dove ci sono cosche o 'ndrangheta, ce ne siamo occupati più volte? Certo che sì, ma lì c'erano pregiudicati, avete ragione, capisco, c'è anche questo aspetto. Non lo so però se nell'omertà di massa da quella parte c'è una questione che riguarda la loro origine meridionale. Sentiamo un po' come la pensano alcuni ascoltatori, per esempio Elisabetta, che ci chiama da Roma. Però prego Elisabetta. Buongiorno, innanzitutto grazie di avermi chiamato per parlare con lei, dottor Giannini, perché l'ammiro moltissimo. Allora, avete detto già tutto e io mi unisco perfettamente a quello che ha detto sia lei che Moccia. Devo tirar fuori altre due cose però che ho nella mente. Innanzitutto il degrado in cui si vive. La stazione Anagnina è, guardi, io quando ci passo con la macchina dico, dovessi prendere la metropolitana qui, ho paura. Quindi il degrado influisce tantissimo, sia il degrado della sporcizia, il degrado di come viene tutto seguito, eccetera. E poi per i cani. Ormai i cani sono diventati più importanti delle persone. Non si parla altro che di cani, come devono essere trattati, per carità, per me sono importanti, ma ormai un giardino dove è tutto organizzato per i bambini si dà precedenza invece ai cani. Queste sono due piccole cose che io voglio aggiungere a quello che lei e Moccia avete detto, e mi unisco a quello che avete detto voi. Ecco, volevo aggiungere questi due punti. Grazie Elisabetta, chiamiamo Luigi, Luigi da Roma. Prego Luigi. Buongiorno. Volevo far sottolineare una cosa che molti non fanno mai notare, che i testimoni, come anche il sottoscritto, spesso dopo aver testimoniato non sono mai protetti dalle conseguenze del proprio agire civile. A me è successo in passato di testimoniare per una lite, un'aggressione che c'è stata, ed è iniziato un piccolo calvario, fortunatamente ne sono uscito anche dopo un anno, dove io ho speso dei soldi, del tempo, ci ho rimesso e non sono stato minimamente tutelato nella mia privacy, sia dalla stessa polizia, purtroppo, che deve prendere spesso anche i nomi quando arriva la pattuglia, con tanti occhi che guardano, controllano, eccetera, e delle ripercussioni. La persona che testimonia dovrebbe essere tutelata. Ok, Luigi da Roma torna sulla tutela. Sentiamo ancora Lisa. Lisa da Milano, prego. Sì, buongiorno. Io, lavorando nel settore, posso portare la mia esperienza. Purtroppo mancano le forze dell'ordine, per cui i carabinieri, i polizie, i vigili urbani hanno le mani legate e non c'è più la certezza della pena. Persino noi, insomma, lo vediamo. E le persone hanno paura di testimoniare. Io abito a Milano, in Viale Padova, e le posso dire che l'omertà inizia anche a Milano, questo glielo assicuro. e quando si arriva in commissariato per testimoniare spesso si cambia idea, perché non si viene nemmeno protetti. E il fatto di Viale Padova, ad esempio, mettere il coprifuoco non serve a niente, perché non serve assolutamente a nulla, quindi bisognerebbe ripensare tutta una serie di questioni, dall'educazione alla sicurezza. Grazie, grazie anche a Lisa. Vedete, è inevitabile quando si aprono i microfoni sentire le opinioni più varie e diverse. Noi siamo abituati a pensare allo Stato, lo Stato, lo Stato deve fare molto. Io vi dirò solo questo: io vengo da un quartiere che all'inizio degli anni 60 era un quartiere di profonde tensioni di immigrati tra nord e sud nel nostro paese, Mirafiori Nord, perché gli operai erano quasi tutti del nord a Mirafiori Nord, ma insomma erano arrivati negli ultimi anni. Vi dico solo questo: in seconda elementare ci è capitato di avere un compagno di classe alle scuole elementari che morì accoltellato perché un ripetente all'oratorio gli tirò una coltellata e lo uccise. E io mi ricordo come se fosse ieri, perché la mia prima esperienza di cosa volevo dire, parlare o non parlare, il fatto che noi sapessimo perfettamente chi era, ma vivevamo nel terrore non di questo ragazzo, che poveraccio aveva molti più problemi di quanto, e che poi si è rovinato la vita per aver fatto quello, ma il problema era che in effetti l'attenzione che si avvertiva nel nostro quartiere, un quartiere povero, molto degradato, lo dico perché molti dicono: ah Giannino, tu sei uno che appartiene alla classe dirigente, ma che cosa state dicendo? Io vengo da questa roba qua, dal primo morto accoltellato nella mia scuola elementare in un quartiere di periferia a forte tensione etnica, era etnica tra italiani prima degli immigrati, però non ci capivamo, perché chi veniva dalla Basilicata e dalla Puglia non riusciva a capire noi che stavamo là. E il problema che ho capito allora è che in effetti bisogna partire dal basso, ragazzi. Per quanto molti di voi che fanno i padri e le madri devono riuscire a parlare non solo ai propri figli, ma anche ai figli degli altri, senza credere che sia lo Stato a risolvere i problemi di tutto. Va bene, fine amara di questa trasmissione. Grazie a Alessandro Borbano, a Federico Moccia e nella prima parte della trasmissione al vice sindaco decorato e a Piero Colaprico. Grazie a Filippo Aureggi in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, a Franco Piantanida, grazie al quale siamo andati in diretta oggi come assistente oggi. Linea al Giornale Radio, appuntamento a domani.